Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 25, 25, ngày và đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao yue fang lo phi so per un momento. E un donce soriso e pap alangolo de la sua boca. Poi bé trò fort le labre de lomo. Le labre di fang yayin erano choppo morbid e tenor. Sembra va che evers in mano un pezzo di gelatina sivolosa. E non poteva fe a meno di modicchia lo erosicchia lo. La semplice intersezione di labbra e labbra fa sentai le person insoddisfet del tatto chin ue fang ha paura che modera la can morbida dell'uccellino. Un memorio soddisfatto uschi do su labbra. Sollevò in casino di fang yayin con una mano. E lancia mano non pote fe a meno di sollevasi dall'alo della camicia. Fang yayin non si può. Ma i suoi occhi erano dritti. Fisalo. Go gli occhi e passo sul sopracciglio molto fitto. Familiar e sconosciuto. In corpo di chin ue fang e ancora secondato dan bibo odo di te nero. C'è e un po fastidioso e felice. Fang yayin anzo leggermente la testa. Secondo di stringia chin ue fang. C'è ire apogiata a lei. Apri leggermente la bocca e sfio o la punta della lingua sale lingua delancio. Questa azione sembra ispirare l'intus de lancia parte. Poteva non vedo l'ora di far rotolare la lingua di fang yayin e di indusire con lei. La punta della lingua si arricchiava intorno alla bocca e alla filecco in lato superior della parete interna. Era un modo familiare di baciarsi. Fang yayin era un po distratto ed era raro prender l'iniziativa. La sua mano avo in colo di chin yue fang e lo tao strettamente an suo corpo. La punta della sua lingua non era controllata da lancia parte cam prima. Ma inizio piuttosto ferocemente un tiro alla fine con chin yue fang. A chin yue fang è sempre piaciuto avo in controllo. Non importa quando edo. In basio intenso fece sanguinare in sanguio. Chin yue fang senti un po di intorpidimento sale punta della lingua. Quindi lo sio con riluttanze le labbra delancio. No, no, no, se basia di nuovo così. Temo che proprio non se la faccia più. Sebben chin yue fang abbia apprezzato la rara iniziativa di fang yayin. Non gli ha fatto rinunciare a frequente mubai. Abbasso la testa per persuadere in passerotto sotto di lui. A questa vista, era un po soffocato. Le labbra di fang yayin erano rosse e gonfi per in basio. C'è ricordavano in calo dei papaveri. Con ambergiu macchi da cua. Campetali bagnes. La camicia era semiaperta. Rivelando un grosso pezzo di pelciara. Delicata cam una barretta di fiori che aveva appena aperto i petali. E gli incantevoli e disordonati capelli neri erano spassi sul spon e su collo. C'è ira, si diucentemente sollevato, si o c'è rang delle person un po insopportabili e lo sgado nei suoi occhi. Splendido e amalien, la bellezza fragile e ben educator sta rivelando in segno che puoi fare quello che vuoi e non può smettere di otta e le person a rivele in lato peccaminoso e confuso. apparentemente vedendo le citazioni e la lotta di cinque fang. Fang yin anzo leggermente in colo. Rivelando in suo colo bianco e fragile. Le dita soleti cavano e si volavano nel cuo della persona esitanti. De, le labbra sputano una vers delicata e affascinante. Cosa stai esitando? Gli occhi di cinque fang brillavano di una profonda seduzione. Cam un pescatore sedotto da un mosso marino. O, becho sinceramente le labbra di fang yin. Tesoro. Se sei stato così seducente tanto in tempo. Va bene. Non posso più sopportarlo. Non importa quanto lo sopporto. Non sono un uomo. Cinque fang rinunciò alla new tai resistenza. E rapidamente ed elegantemente. Cinque fang sentiva che in suo corpo doveva essere ancora in grado di resistere giorno e notte. Dopo tutto, Fang Yin non si sarebbe svegliato fino alla seconda volta. Fang Yin ha evocato un sorriso indifferente. Quanti chili e quanti ta en conosci ancora? Đừng sao mà biển mặn. Đã nói từ đầu rồi. Không nghe thì thôi. Cách chương.